mi dice che amore, ma si rivela una ferita che non lascia traccia. E mentre cado a fondo negli abissi più profondi, penso, dai, sarà normale, è la routine di questo mondo che mi